dopo gli ultimi tre pezzi credo che potremo chiudere la radio, Mario, e andarcene tranquillamente a casa, perché bella proprio. Ah, come sono contento di stare a Radio Rock e di poter mettere queste opere. Come avresti fatto in un'altra radio? Non ci sarei andato, semplice. Bravo, ottima risposta. Bene, grazie. Quindi meglio non trasmettere che non trasmettere quello che voglio. Non c'è dubbio. Bravo. Non c'è assolutissimamente dubbio. Gabriele Vasquez, c'è lui del cellulare, come al solito in ritardo netto. No, puntualissimo. La prossima volta ti faccio come i calciatori, ti multo. Allora, tu mi avevi detto ore 8, io sì, ore 8, 8 sono... Le ore 8 radiofoniche sono le 8 meno un quarto, perché devi preparare la trasmissione. Ma io c'ho tutto in te. No, non hai capito, bisogna mandare la sigla, devi essere qui pronti, via, capisci? Ah. Allora, la prossima volta quando mi dici un orario levo 10 minuti. Beh, lo sapevi già. Ti sei offesa? Sì. Allora, il cinema, colpo di scena per il nostro Checco Zalone che fa Strike. Il botto proprio, ha fatto il botto, 11 milioni nel weekend per un 18 milioni totali, già sta, cioè già è arrivato al totale del cinema panettone di Natale in Sudafrica. In una settimana? Non in un weekend, ma in 7 giorni completi, ha fatto quanto in un mese il cinema panettone, che è il secondo o terzo film di maggior incasso dell'anno scorso. Cioè, già è oltretutto, che bella giornata, e il suo cammino ha solo che da crescere. Che è sceso dal settimo posto, Natale in Sudafrica. La banda dei Babbi Natali anche è crollata. Esatto, che sta appunto sta a 18 milioni e 4, e mentre invece Che bella giornata a 18 milioni e 6. No, Babbi Natale 20 milioni. Sì, no, dicevo Natale in Sudafrica. Babbi Natale che ha sorpassato anch'esso Natale in Sudafrica, sta a 20 milioni, ma appunto è uscito ben prima di Natale, quindi quasi un mese fa. Devo dire che il film è carino, non fa ridere proprio tanto, fa sorridere. Beh, come il primo. Sì, la scena, il primo non l'avevo visto. Ah, ok. La scena più bella è quella del battesimo del bambino quando vanno in Puglia, dove c'è anche Caparezza, tra l'altro. C'è anche Caparezza, giusto, è vero. È la scena più carina. Però è anche un giallo, un thriller, una sorta di thriller. Sì, ma in un certo senso c'è tutta una tematica politica, forte, in un certo senso sì. Il finale con la pacca sulla spalla al Papa è veramente poco politically correct. Ma tutto il film è poco politically correct. Esatto, lui si distingue molto per questo essere molto poco, essere cattivo, veramente, sì, onestamente, sì. Cattivo. E cattivo non solo con le figure con cui solitamente si è poco cattivi, dal Papa, ma anche con se stesso e il paese. Il suo personaggio è terribile, è veramente ignobile, è una cosa, il più schifo dello schifo. E si bea di questo essere schifoso, delle raccomandazioni. Ma che studi a fare? Qui in Italia non c'è bisogno, sì, nessuno fa un cazzo. Vedi che ti spiego. E ha ragione, purtroppo. Purtroppo ha ragione. Basta guardare, vabbè, ma andiamo avanti. Insomma, film di questa settimana. Abbiamo solo 20 minuti. Te lo dico. Ecco, lo sapevo. Qui lo dico e qui lo nego. Mi state tagliando lo spazio, mi state tarpando le ali. Questa è la verità. Fossi venuto prima. 5 minuti. Allora, fine questa settimana. Io pensavo avremmo parlato di più del box office. Quindi sto andando a vedere bene. Allora, parliamo del box office. Che esce questa settimana? No, parliamo di quello che esce questa settimana. Allora, questa settimana è uscito Skyline. Che pensa, è l'unico film di questa settimana che non ho visto. L'unico. Hai fatto bene. Lo sospettavo. Allora, il punto è che Skyline non è stato presentato alla critica, quindi sarei dovuto andarlo a vedere al cinema oggi, perché esce oggi, e non certo, ho fatto in tempo. Non ho certo fatto in tempo. Un mio amico che l'ha visto. Che dice tuo amico? No, io ho visto dei pezzetti, però lui l'ha visto oggi al cinema e mi ha telefonato. E mi ha detto che tu l'hai visto mai, Zorro contro la Camorra? No, l'hai mai visto? Non dire che mi manca. Maciste contro Godzilla? È così, questi sì, sono più ferrato. Li hai visto? Mai visto mai Maciste contro Godzilla? Sì, beh, sì. Siamo da quelle parti. È così. Grande. È una cosa terribile. Sembra, gli attori sembrano dei, hai presente i pupi siciliani quando li muovi così, agiti dall'alto, seguitemi. A un certo punto dice: voi fate come vi pare. Una curiosità, se... una curiosità, no, pazzesca. Voi fate come vi pare, se vi va, venite da me, seguitemi. E io, beh, vedo quando locandina, me l'ha raccontato, ho detto non è possibile. Vedo dalla locandina che è fantascienza, siamo dalle parti proprio della, della fantascienza. Come? Più c'era. Come? Credo che sia, è, da quello che mi ha detto lui, è una sorta di pastone, ma veramente di un pastone di tutti i film di fantascienza del mondo che sono stati fatti fino ad oggi. Categoria mettemoci tutto. Sì, ma di più, ma proprio di più. Perché non se famo manca niente. Sì, le cose più... E poi, vabbè, mi ha detto che i mostroni sono fatti con Lego. Sono una cosa terribile. Straordinario. Questo è il grande cinema artigiano, diciamo, sì. Quello fatto proprio a mano. Vabbè. Allora, invece cosa esce questa settimana di più serio? L'Orso Yogi, vai. Esce l'Orso Yogi, il cartone animato live action, cioè con attori e personaggi digitali, dell'intramontabile, direi, orso ideato da Anna e Barbera, quello dei cartoni di Anna e Barbera. Che vuol dire attori digitali? No, attori reali, in carne ed ossa con personaggi digitali, cioè l'Orso Yogi è un personaggio digitale. Ho capito. Però poi ci sono attori veri in un set vero, quindi è un film dal vero con attori. È un film in 3D, un 3D categoria 3D posticcio, cioè quelli che prima li girano e poi e dicono 3Dizziamolo. Quei film che seppure ti levi gli occhialini in 3D non è che vedi poi tanto diverso. Insomma, non è un gran 3D. Il film è un film proprio per bambini, cioè non sono quei film che poi dici però un adulto poi gli piace. No, è un film per bambini, molto standard, esattamente quello che vi aspettate. In americano l'ha doppiato, lo so io che è doppiato da Dan Aykroyd. E secondo me, insomma, un film abbastanza scadente. Beh, c'è Dan Aykroyd proprio, Justin Timberlake. Sì, no, il doppiatore, quello che doppia l'Orso Yogi, è Justin Timberlake, doppia Bubu. E... non ci sono gli attori proprio. No, loro due sono doppiatori, poi gli altri sono veri attori. Però loro due fanno le voci. Ma scusa, qui leggo attori, Dan Aykroyd. Sì, perché la categoria è quella, però sono doppiatori. Ah, come non detto? Ignoranza. È una brutta bestia. Brutta bestia proprio. Insomma, sì, l'Orso Yogi in generale lo sconsiglio. Veramente. Cosa consigli? Allora, questa settimana esce. Sono due film che sono sicuro voi, cari ascoltatori, sarete indecisi da andare a vedere. Uno è Vi presento i nostri e l'altro è la versione di Barney. Allora, cominciamo da Vi presento i nostri, che è il più atteso. È il terzo capitolo di Ti presento i miei, il film che quasi 10 anni fa, grandissimo, film molto divertente, quasi 10 anni fa, molto contrapponeva... Bello, devo molto dire, bello. Tutte e due molto belli. Contrapponeva Ben Stiller a Robert De Niro. Il secondo, devo dire... ex della CIA. Sì, era Robert De Niro è il suocero di Ben Stiller, che è un ex della CIA, l'incubo di Hugh, come, che nel primo film gli faceva la macchina della verità quando lui doveva sposare la figlia, straordinario. Il secondo era incentrato su i genitori di Ben Stiller, cioè Robert De Niro è il padre della fidanzata, e invece nel secondo c'erano i genitori di Ben Stiller, che erano Dustin Hoffman e Barbara Streisand. Chiaramente la dinamica comica era che lui, De Niro, ex della CIA, quindi il massimo del conservatore, vi potete immaginare che uomo d'altri tempi. I genitori di Ben Stiller invece erano dei fricchettoni incredibili, che causava mille brutte figure. Io l'avevo amato molto meno, devo dire, il secondo, mi era piaciuto molto meno. E forse sarà per questo, per il fatto che il secondo mi era piaciuto molto meno, che questo terzo mi è ripiaciuto abbastanza. Non ai livelli del primo, però non è quel che era il secondo. De Niro sta facendo un film a settimana. Sì, non sa dir di no. È fatto così lui. Ha questa debolezza per il denaro e lui gli piace proprio. È una cosa che gli piace. Questo qua è un film che racconta invece del momento in cui Ben Stiller e la ragazza hanno dei figli, e quindi De Niro diventa nonno. In realtà era già nonno nel film precedente, però qui stavolta è nonno dei figli di Ben Stiller. È un film, c'è anche Jessica Alba, c'è Harvey Keitel in una piccola parte, molto divertente. Quei film di Harvey Keitel belli, tipo il cattivo tenente. Non vuol dire che mi è da piangere. Quelli e quelli sì che erano dei film veramente di una violenza. Però c'è ancora, tu li vedi mai, hai mai visto i film di James Gray? James Gray ha fatto I padroni della notte... ha fatto film polizieschi americani di oggi, con lui lavora sempre con Joaquin Phoenix, molto belli, molto duri. Me lo segno. Te lo segni. I padroni della notte. I padroni della notte. E anche, mo te ne consiglio anche un altro molto bello, però devo andare a vedere perché il titolo esatto non me lo ricordo bene. Vabbè, andiamo avanti, dai, sennò perdiamo solo tempo. Te lo dico, però, che ce l'ho qua sulla lingua, devo dirlo. Ce l'ho qua sulla lingua. Cioè, si vede che se... ce l'ho proprio, e non lo trovo, ovviamente. La notte non aspetta, l'altro. Molto bello, la notte non aspetta. E insomma, e questo. Dicevo, sì, i presenti nostri... È divertente, ci sono più che altro, devo dire, è uno di quei film in cui ci sono 3-4 scene molto molto divertenti, il resto oscilla un po', però ce ne sono 3-4 in effetti molto molto divertenti e si recupera un pochino di quell'atmosfera del primo. Mentre invece, l'altro film che è molto atteso, lo so, è la versione di Barney, perché viene da un libro molto noto, che è molto piaciuto e che ha molto venduto. Allora, diciamolo subito. Agli amanti del libro, io non ho letto il libro, agli amanti del libro so che il film non è piaciuto, quindi c'è questa solita polemica del è diverso dal libro, hanno fatto dei cambiamenti, non è bello come il libro. Agli altri, chi non ha letto il libro, categoria in cui entro anch'io, è abbastanza piaciuto. Più che altro soffre un po' di quei film che sono tratti da libri, che sono anche molto lunghi, molto completi, molto descrittivi. Il film comprime, non fa quella scelta, secondo me molto sensata, che fanno alcuni di levare totalmente delle parti per concentrarsi molto su una cosa sola, che per un film è meglio, ma ci vuole mettere dentro tutto, e quindi si sente un po' che alcune cose sono solo accennate ma sarebbero belle. Ma c'è questo personaggio principale, questo Barney, che dà il nome al film, che è straordinario, è un personaggio bellissimo, che chiaramente è il merito è di chi l'ha scritto, cioè dello scrittore del libro, ma molto va anche all'attore Paul Giamatti, che lo interpreta alla grande. Ed è un, questa è la storia di quest'uomo orribile, cioè questo uomo ignobile, uno che fuma, beve, bestemmia, tradisce le mogli, veramente un uomo male fumare. No, ma viene presentato come un uomo gretto, ma in realtà poi scopre nel conto di me è straordinario, ma è straordinario non perché non sia gretto, è gretto e straordinario, è entrambe le cose, e questo è il bello del film. E una lacrimuccia può anche scendere, a me devo ammettere è scesa verso la fine, perché è un film molto, da quel punto di vista molto ruffiano. Però insomma, mi sento di consigliarlo a chi ama questi grandi racconti, grandi personaggi. Poi il film è un biografico, lui non è un personaggio veramente esistito, ma è un film biografico che racconta la sua vita, quello che gli è successo nella vita. E insomma sì, io mi sento assolutamente di consigliare la versione di Barney. Hai visto per caso Qualunque mente? Lo vedo questa settimana che arriva. Sai dove lo vado a vedere? No. Questo è un dato molto interessante, attenzione. Dove lo un film come, allora, Qualunque mente è il nuovo film di Antonio Albanese, in cui Antonio Albanese fa quel suo personaggio che era Cettola Qualunque, il politico qualunquista amante della finca, diciamo. Lo fanno al nuovo Sacher. E lo presenta Piera De Tassis, che è la direttrice del Festival del Film di Roma e direttrice di Chuck. Cioè, una presentazione e un tipo di luogo che per il tipo di film è indicativa. Cioè, solitamente questi film non vengono presentati in questi luoghi e non ci sono personalità importanti del mondo della critica, come Piera De Tassis, che li presentano, fanno una conferenza stampa. Il che vuol dire che su questo film ci stanno puntando molto, ma molto come valore del film. Un film alto, serio, è un film comico, però... vuole essere, io lo devo ancora vederlo, vedremo com'è, però lo stanno promuovendo e facendo girare come un film molto importante, diciamo, gli stanno dando la caratura del film importante, quindi vedremo che... Qualche messaggio, no, perché il maestro Vasquez ha sempre così poco tempo? Non è che la scorsa settimana ha avuto un'ora. Ha poco tempo, vedi, perché lui viene tardi tutta l'ora, perché lui è un po' cornuto e viene tardi. Ecco perché, è semplice. Gli ascoltatori vogliono di più. Allora, il brano era di Frank Zappa, Sinister Wood, Footwear. Come? Da che album? Perché neanche io lo conoscevo. Che conosco abbastanza, un pochino, Zappa. Make a Jazz Noise Here Live. Ok. In quella versione lì, Allora, il film di Muccino. Il film di Muccino possiamo dire che è andato molto male al botteghino. Era una cosa, è già fuori dalla top 10. È una cosa che avevamo, mai entrato. È una cosa che avevamo previsto, perché è uscito nel giorno peggiore in cui si poteva uscire, cioè è uscito il 24 o 25, se non mi ricordo quale due. Insomma, comunque vigilia o giorno di Natale. Stritolato tra tantissimi titoli natalizi. Quest'anno erano veramente tanti i film grossi di Natale. Non aveva il suo pubblico di riferimento. Insomma, è stato veramente mandato a morire ed è andato molto male. Del resto, era un film abbastanza brutto, non mi vergogno di dire che insomma aveva i toni abbastanza ridicoli, non quel capolavoro dell'assurdo che era il primo film Parlami d'amore, ma comunque un film assolutamente stralunato e estremamente naif, ingenuo, proprio no. Stavo leggendo, non so, magari ho letto male, che il Che bella giornata, il nuovo film di cui stavamo parlando prima, di Checco Zalone, nel primo weekend abbia stracciato anche Guerre Stellari. Sì, sì, ha fatto il record assoluto totale. Anche perché battendo Avatar ha battuto anche il resto. Cioè Avatar aveva già battuto tutti. Lui battendo Avatar automaticamente ha battuto addirittura Avatar. Eppure un film. Sì. Cioè, ma guarda, è fatto con poche lire. Una combinazione straordinaria di alcuni elementi. Cioè, perché secondo te? Perché guarda, tutta questa gente è andata a vedere questo film che non la dinamica è stata di... veramente esatto, la dinamica, ma a parte che mai i film di vero grande incasso sono gran bei film, questo non, perché per piacere a tutti devi dare un po' a tutti e quindi devono essere un po' niente di che. E infatti devo dire che il film non è male. Esatto. Checco Zalone lo sappiamo benissimo, aveva già partiva con un suo successo televisivo, aveva fatto un primo film che era andato molto molto bene, non così, ma molto bene per essere l'esordio di uno che stava in televisione prima. C'è stata questa mossa molto acuta di farlo uscire a molto poco, cioè l'altro film è uscito poco tempo fa in fondo e Cado dalle nubi, appunto l'altro film, da poco è passato su Sky e noleggio, quindi tutti quelli che non l'avevano visto al cinema ma che ne avevano sentito parlare perché il passaparola era girato, l'hanno visto, gli è piaciuto perché è un film che è piaciuto e hanno avuto subito la possibilità di vedere l'altro immediatamente. È uscito in 1 miliardo di sale, cosa che tende ad aiutare. 775 schermi. E essendo un film che poi piace, perché è un film carino, nessuno ne ha parlato male, giustamente, perché non c'è da parlarne male. No. C'è stato anche in più anche il passaparola positivo. Ed è facile immaginarsi se al primo weekend, no, lo vanno a vedere già in molti, il passaparola di molti moltiplica per 10 in maniera esponenziale. Sì, certo. Esatto, è una cosa automatica. Pensi che possa superare Benvenuti al Sud? Penso proprio di sì, perché Benvenuti in Sud in totale ha fatto più di 30. No, quasi 30. Quasi 30, giusto, quasi 30. E lui sta a 18 al primo weekend. Sta già a più della metà. Per cui è molto probabile che possa superare Benvenuti al Sud. Mi stai dicendo Benvenuti al Nord, invece lo faranno con chi? Stanno girando, ma non credo che ancora sia stato rilasciato il cast. Adesso ti controllo subito, ma mi sembrava, perché avevo seguito la cosa, che ancora non abbiano detto chi. Sì, ancora non c'è un chi. Però Ballanzasca esce la prossima settimana, sarà il filmone. Guarda, a me, te l'ho detto, è piaciuto abbastanza Ballanzasca, diciamo che è soddisfacente, mettiamola così, è un bel film soddisfacente. Poi, per gli amanti dei poliziotteschi anni 70 sarà, come me per esempio, guarda, bellissimo. Secondo me in certi tratti godrai proprio, in altri meno però, perché poi ha anche una parte un po' di pretesa più... non B, capito? Non di serie B ma di serie A, che forse la cosa doveva un pochino di più. Però invece in altre è molto diretto. Avevamo detto somiglia molto come toni, come fotografia, romanzo, come dinamica, criminale. Romanzo criminale, e a quei film francesi come Nemico pubblico numero uno, quelli su Jacques Marin, si rifà molto a quello, perché il personaggio possiamo dire che è simile in fondo. Non siamo troppo lontani, i costumi sono quelli. Comunque no, un bel Kim Rossi Stewart. I milanesi che ho sentito mi hanno detto che in realtà, perché lui parla milanese, quello che a me è sembrato un gran bel milanese, ma i milanesi mi hanno detto no, non è un gran bel milanese. Però diciamo che chi non ha quel tipo di orecchio gli sembra che vada alla grande. Vabbè, i film che usciranno, insomma, le bombone sono già uscite, quindi le grandi attese, quando i viaggi di Gulliver. No, tra poco esce Green Hornet in 3D, che è un film molto divertente, è un film di supereroi incredibilmente divertente, perché è diretto da Michel Gondry. Esce tra 2 settimane Il discorso del re, che è un film che si fa un gran parlare per gli Oscar, molto molto si fa un gran parlare. Poi adesso io già l'ho visto il film e ne parleremo quando uscirà. Comunque è il film che ha una trama che sembra stupida, cioè racconta di re Giorgio VI, che era il re vigente in Inghilterra quando c'è stata la seconda guerra mondiale. Era quello che ereditò il trono dal fratello, che si era sposato dopo divorziato, insomma aveva avuto quei problemi per cui aveva rinunciato al trono e quindi era succeduto il fratello. Che aveva un problema incredibile Giorgio VI, era balbuziente, ma moltissimo balbuziente, in un momento in cui la radio era uno strumento fondamentale per parlare alle persone, per cui prende questo logopedista straordinario che è Jeffrey Rush, che che lo aiuterà a smettere di essere balbuziente. Come ho detto, sembra una trama veramente ridicola per essere un film importante, Oscar, In realtà, con questo espediente del piccolo e del grande, cioè il grande re, la grande storia, la seconda guerra mondiale, e il molto piccolo, cioè il logopedista semplice, umile, con un metodo, aveva un suo metodo rivoluzionario per una persona semplice, riescono a fare un discorso, vogliono fare un discorso in questo film molto sull'umanità, su appunto sul rapporto personale, per cui nonostante la trama possa sembrare scema, il film non lo è per nulla, anzi non è un film se ne dove sa si è nulla investito molto. Invece di Thor, che attendo con ansia, del potente Thor, estate Thor. Mi sembra di con ricordare il martellone diretto da Kenneth Branagh la scelta di darlo a Kenneth Branagh è straordinaria, perché è uno che si è distinto sempre per fare i grandi adattamenti molto seri delle opere di Shakespeare, e dargli un personaggio come Thor è una Beh, scelta una bella straordinaria sfida, però, Esatto, una scelta forte, molto molto forte, anche perché non sarà un film di Thor intellettuale, perché è una produzione, lo so perché sappiamo chi produce, molto, cioè molto commerciale, per cui non è nemmeno che lo dovrà snaturare, dovrà essere lui, Kenneth Branagh, a snaturarsi, il che non può che fargli. Chiudiamo con bene. War House, il nuovo film di Steven Spielberg. Ne sai nulla? 29 aprile esce Thor. Ah, grazie. Ne sai nulla? War Horse, no, non ne so nulla, perché Spielberg in realtà fa questa cosa che lui lavora da molti anni a Ten-Ten, e tutte le notizie sono su questa cosa. Poi ogni tanto se ne esce con altri film di cui nessuno sa niente, perché sono tutti concentrati a vedere quello che sta facendo su Ten-Ten, per cui non so molto su War Horse. Ma Ten-Ten è il fumetto? Esatto, il fumetto, lo sta facendo, il fumetto di Ten-Ten lo sta facendo con le tecniche di Avatar. È una cosa stranissima. Bah. Io neanche, forse ho visto qualche giornaletto con Ten-Ten, ma che fa? Che io ho visto qualcuno un detective. Io ho visto alcuni dei film animati che sono stati tratti, erano abbastanza brutti i film animati, non mi sono piaciuti per nulla. Senti, mi chiedono come si chiama il film con il logopedista. Allora, il film con il logopedista si chiama Il discorso del re ed esce il 28 gennaio. Poi ne parleremo quando uscirà, perché ci sono molte cose da dire. Che mi sono perso vedendo Tron Legacy in 2D rispetto al 3D? Tutto, perché Tron Legacy, benché l'abbiamo detto, è un film dove il 3D... Me l'ha distrutto. Sì, perché è un film dove il 3D... Può sembrare che si senta poco, perché molto spesso gli sfondi sono neri, sono completamente neri, quindi cioè che profondità ci può essere se è tutto nero? In realtà quando c'è è molto pesante, molto importante, e come avrei visto avendolo visto Tron Legacy, è un grande pacchetto di musica, design e 3D che va visto nel suo complesso, per cui secondo me ti sei perso molto. Noi ci dobbiamo fermare qui, Vasquez. Non so se volevi aggiungere altro. Mi chiedono altro. Di Moon, di Duncan Jones, che dicono non un capolavoro, ma l'ho trovato molto interessante, dice Marchino. Io l'ho trovato proprio un capolavoro, secondo me un grandissimo film. Ce ne andiamo, lasciamo tutto in mano a Mario Tagliaferri. Ci sentiamo, andiamo via mezz'ora prima per problemi legati a delle noiosissime riunioni, caro Vasquez. Cioè tu hai delle noiosissime riunioni. Riunioni con una texana. Cioè io, gli ascoltatori che mi richiedono per ore e ore di diretta, io non devo starci per delle texane. Ah, però c'è una cosa che devo segnalare, sì. Improbabilmente ci metto poco. Sì, vai. Perché questa è importante. Sì, Venerdì prossimo su Rete 4 alle 16.05 del pomeriggio. Venerdì prossimo su Rete 4 alle 16.05 fanno il Grinta. Perché è così importante dire che fanno il Grinta su Rete 4 alle 16.05? Perché tra pochissimo esce il remake del Grinta dei fratelli Coen, e sarà molto interessante rivedere ora il Grinta, quello con John Wayne, vedere che hanno fatto, perché dall'America arrivano voci di filmone veramente veramente bello. Per cui venerdì 16.05 qualche giorno fa Rete 4, rivedete il Grinta con John Wayne, perché sta arrivando l'adattamento dei Coen. Grazie a tutti, ricordate sempre che una pietra che rotola coglie Masugo. A lunedì, buon resto di Radio Rock.